Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti. Buonasera a tutti da Gegè Telesforo, qui dal Groove Master Studio per il sound check, la prova del suono, il suono della musica di Radio 24. Buonasera anche al nostro comunicatore multimediale di nuova generazione dalla Calabria con furore, Francesco Tromba. Ciao a tutti. Buonasera, benvenuto. Ciao, come stai tu? Abbastanza bene, bene. Sei in forma? Sì, in forma. Mi sono divertito questa settimana, ho ascoltato tanta musica, tantissime novità, perché oramai ho questo contatto diretto con le etichette indipendenti, internazionali, addirittura con gli artisti, che riesco a ottenere anteprime non solo nazionali ma internazionali, come un'anteprima di oggi, ma che presenteremo nella seconda parte dopo l'informazione delle 20. Io l'ho ascoltata, me l'hai fatta sentire prima, veramente impressionante. Vabbè, ne parleremo dopo perché abbiamo ancora tanta musica e sono arrivate tantissime email all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Io lo voglio dire, mi sento in colpa perché non ho ancora avuto il tempo di rispondere agli amici che ci hanno fatto richieste di informazioni sui brani mandati in onda quest'estate, brani che sono andati in onda durante le repliche con il The Best del Soundcheck, e quindi sono veramente indietro, non so come fare, mi devi aiutare. Ti darò una mano, dai. Comunque ho notato che sono arrivate moltissime email dopo la puntata di sabato scorso, quella dedicata alla televisione, con nostro ospite un autore importante della televisione italiana come Sergio Rubino, che ha firmato programmi importanti, belli e brutti, degli ultimi 20 anni. Sì, la televisione italiana, diciamo, è rimasta un pochettino indietro, almeno la mia sensazione è Vabbè, questa. Come il paese, no? Rispecchia, sì, il paese. No? Infatti, come diceva Rubino, comunque praticamente la televisione è lo specchio della società. Della nostra, sì, società. Ma la cosa che ho notato è che chi ha scritto le mail e quindi è un fedele ascoltatore di Radio 24 e un appassionato di musica, la televisione non la sopporta perché ne hanno scritte di tutti i colori. Sì, perché ormai comunque i talk show sono tutti identici, soprattutto quelli politici, cioè se tu passi da un canale all'altro ti sembra di assistere allo stesso identico programma, quindi una noia mortale. Ma allo stesso identico programma anche passando da un anno all'altro. Esatto. Cambiano soltanto le scenografie degli studi. Sì, e poi pure gli ospiti ormai sono sempre gli stessi. Però invecchiano. Sì, ecco, ovviamente ogni anno invecchiano. Allora, passiamo alla musica che è meglio, come dice uno dei puffi, non so quale puffo, ma è uno dei più simpatici. Direi di tornare ad ascoltare un altro brano tratto da questo album dal vivo di recente pubblicazione, che ha come protagonista una delle mie vocalist preferite ormai da anni, figlia di Donny Hathaway. Torniamo ad ascoltare Lala Hathaway in questa performance live, e qui celebra suo padre con questa composizione intitolata Little Ghetto Boy. Ecco, Lala Hathaway, richiesta dagli artisti del momento, ha portato ad avere successo anche vincendo Grammy Award, che ne so, Robert Glasper, ma anche gli Snarky Puppy. Se ne viene fuori con un disco dal vivo, quindi cerca di ottenere il massimo con il minimo sforzo. E sai dove è stato registrato questo live? No. Al Theater Troubadour? West Hollywood, quindi California, è un luogo storico, sono stati registrati diversi live lì. Lei è contentissima di questo disco perché proprio dice che era un sogno che voleva realizzare, perché in questo modo c'è sia lei, la sua band, che anche i suoi fan dentro questo disco, perché appunto essendo stato registrato dal vivo ci sono anche... C'è la partecipazione, e questa, sì, è una cosa molto emozionante. Infatti all'interno delle tracce si sente il pubblico che incalza, batte le mani perfettamente a tempo e anche intonatissimo. Pubblico... Mica siamo in Italia. Mica, esatto, mica il pubblico dei programmi TV. Little Ghetto Boy, Lala Hathaway al soundcheck di Radio 24. And I know in my heart, richiestissima Lala Hathaway dalla discografia internazionale di oggi, dai campioni di musica della nuova generazione, fra questi anche la batterista Terry Lynn Carrington. Lavoro nuovissimo per lei, dove ho messo il disco. Tromba, devi essere un po' più ordinato con i CD, te lo dico. Non ma mi veramente piace... sei tu questo disordinato, dischi, un po' sì, una montagna. Sì, non so più come metterli noi. Comunque, dove sta? Fammelo a parte cercare. Che eccolo qua. Tu ancora usi i dischi. Beh, sei sì, proprio antico. Io, no, sono old school e mi piace avere toccare fisicamente l'artista attraverso la sua discografia. Terry Lynn Carrington, batterista meravigliosa, The Mosaic Project, Love and Soul è il titolo di questo album nuovissimo, la partecipazione di grandissime vocalist e fra queste anche Lala Hathaway. Il brano si intitola This Too Will Pass, passerà anche questo, brano scritto proprio dalla nostra Terry Lynn Carrington, qui protagonista del soundcheck. Hey there, mommy, why is auntie sick? Her hair looks different, she's weak and awfully thin. Her voice may tremble, but her mind will not give in. Soundcheck, il suono della musica. Il titolo di questo brano tratto dal repertorio di questa band californiana chiamata Moonchild, tre ragazzi bravissimi laureati in musica e soprattutto la voce di Amber Navran, anche sassofonista, autrice dei testi e di queste meravigliose melodie che hanno caratterizzato il sound dei Moonchild, che speriamo di vedere dal vivo prestissimo nel nostro paese. Ma ormai l'abbiamo sentito, ce l'ha detto Sergio Rubino, in TV in Italia bisogna andare sul sicuro, quindi anche nei festival un po' vediamo sempre le stesse cose. Soltanto al Locus Festival l'estate scorsa è stato presentato un cast contemporaneo all'altezza del momento. Sì, e che poi in realtà è andato benissimo. Molto, grandi, cioè, grandi presenze. Grandi. Devo contattare il direttore artistico e invitarlo per parlare di musica e come si organizza un festival contemporaneo in Italia e quali sono le difficoltà. E dai Moonchild tornerei a presentarvi la nostra amata Lian Lava. La amiamo perché fa musica di grandissima qualità. Ecco, Lian La Havas è una di quelle vocalist che vorrei vedere in un festival come quello che si presenta d'estate al Loco Rotondo. Perché lei comunque in Gran Bretagna, anche negli Stati Uniti, è famosissima ormai dopo appunto l'amicizia con Prince. Ma a proposito di questa amicizia con Prince, tempo fa, proprio tu l'hai detto, sì, uscirà il disco nuovo di Prince con la partecipazione anche di Lian La Havas. Ma io l'ho sentito il disco di Prince nuovo, tu l'hai sentito? Io l'ho sentito. A me dispiace, non dovrei dirlo perché sono un grande fan di Prince, tra l'altro ho anche lavorato al Paisley Park per un bel periodo quando ero negli Stati Uniti con Sidran e la Go Jazz. Tutti rispetto per un grandissimo artista, ma che gli è successo? Ma secondo me fare tre dischi in due anni, cioè a parte che sì, sei Prince e te lo puoi permettere, però è un errore dal mio punto di vista, perché fare tre dischi neanche due anni è... Fatto sta che io non so se presentarlo nel mio programma, il disco di Prince. Me lo io posso non permettere, l'ho capito, no? Me lo posso permettere, no? Posso sì, farlo. A me non è piaciuto per niente il disco di Prince nuovo. A me neanche. Vorrei anche dirglielo, ma che ti è successo? Perché sono preoccupato per le sue condizioni fisiche e mentali. Bastava magari aspettare un altro anno per dare una forma un po' più concreta. Sì, manca la melodia, il suono, sembra un disco fatto 20 anni fa senza un'idea, un concept forte come quelli che hanno caratterizzato la musica di Prince. E poi posso annunciare... dirla tutta? Sì. Posso dire una cosa brutta? Comunque. Dilla. A me è apparso proprio una cafonata. Beh, è vero, puoi annunciare la partecipazione di Lian La Havas, che poveretta nel disco non fa nulla. Sì, dice solo Mr. Nelson. Mr. Nelson, dice Lian La Havas. Green and Gold, invece, in questo brano Lian La Havas dimostra tutta la sua arte. Let me see where I come from. Soundcheck. Il suono della musica. La classe e l'eleganza di una delle songwriter più apprezzate negli Stati Uniti, non ancora molto conosciuta dalle nostre parti, album intitolato The Switch, e questo era uno dei brani che sta spopolando in America, ovvero Distance. Ho visto su YouTube, mio caro Francesco, un concerto, una performance di Emily King, che in questo momento veste solo di rosso. Sì, tra l'altro è la copertina, nella copertina del anche disco, nella copertina con questo sì, si presenta dal vivo esattamente con lo stesso look che ha proposto sulla copertina del disco. L'immagine deve essere così, è chiara, no? Una strategia proprio, sì, di marketing tipicamente americano. Esatto, e se ti presenti così, sì, devi essere così anche nella così vita. Così poi forse vende pure il vestito, no? E può essere, se lo fa lei sì, diventa un bel guadagno anche quello. Bene, si presenta sul palco e quando intona Distance, la melodia che abbiamo appena ascoltato qui su Radio 24 al soundcheck, il pubblico impazzisce. Sì, perché lei è veramente bravissima. E questo disco è un prodotto secondo me fantastico, perché riesce a mischiare proprio, cioè, sia la difficoltà comunque delle composizioni con la fruibilità, e quindi ne viene fuori un... E questo è il segreto, sì, il segreto proprio che un compositore deve considerare quando si scrive una bella canzone. Sì, bisogna, deve arrivare a tutti e non deve mai essere banale, è comunque cosa molto complicata, neanche troppo complicata da ascoltare, quindi certo, assolutamente. E ha ricevuto anche gli apprezzamenti di colleghi del calibro, per dire, di Sam Smith, che ha fatto incetta degli ultimi Grammy Award e anche nei Mercury Prize in Gran Bretagna, che ha pubblicato un tweet in cui le fa direttamente i complimenti. Eh sì, e noi vorremmo vedere Emily King dal vivo nel nostro paese, ma vedi quanti artisti? Ce ne sono tantissimi, ormai rispetto a una volta magari d'estate non usciva tanta roba, invece quest'estate è stata ricca di novità, molto importanti e anche molto belle da ascoltare. Ma questo perché proprio le pubblicazioni adesso le seguono direttamente gli artisti con le piccole etichette indipendenti, perché invece quando sei legato a una major ci sono proprio dei periodi, anzi delle giornate precise, durante le quali strategicamente devono uscire gli album. Infatti noterai che molte pubblicazioni dei grandi artisti escono nello stesso giorno. Eh sì, perché comunque ovviamente anche in base ai mercati sui quali escono ci sono delle strategie particolari di marketing. Eh sì, oggi gli artisti sono anche i producer del loro materiale, quindi i proprietari dei loro master, e decidono loro personalmente la migliore strategia nella comunicazione. Così sono anche più liberi di creare la loro arte. Assolutamente sì. Da Emily King a un'altra giovanissima interprete americana, nata e cresciuta a Brooklyn, ha fatto i suoi studi di musica al Berklee College, sempre lì a Boston. Prima o poi dedicheremo alla Berklee College una puntata, perché ho degli amici che hanno studiato lì e anche alcuni docenti italiani che insegnano lì alla Berklee, quindi potremmo dedicare per capire perché è così importante per i giovani musicisti la didattica al Berklee College. E magari facciamo anche un rapporto con una scuola italiana per capire la differenza. Perché no? Perché d'approccio, no? Certamente. Allora, questa giovane artista si chiama Joanna Titters, soltanto 23 anni, l'ho conosciuta, l'ho incontrata, abbiamo anche lavorato insieme qualche mese fa a New York. Ma tutte devo tu dire... le conosci? Io sono curioso, Francesco, no? E tra l'altro come l'ho conosciuta Joanna Titters? Guardando proprio proprio i video della, i videoclip della sua band, ovvero i Mad Satta, proprio su YouTube. E poi come hai fatto? Le hai scritto un'email? Le ho mandato un'email insieme al mio co-producer Leo Sidran, ha risposto e l'abbiamo convocata subito e abbiamo registrato subito qualcosa insieme. Ah, hai visto? Formidabile, sai, quei talenti proprio naturali, ha aperto la bocca avanti al microfono e dal primo momento ho capito che è una grandissima artista, una grande voce, un talento che segnerà il futuro della discografia internazionale. Bravo, mi piaci quando vai a scovare questi nuovi talenti. Ti ringrazio, sono fatto così, Trombal, dovresti saperlo. Bravo, bravo. Allora, ascoltiamo Mad Satta, la vocalist è Joanna Teeters, il brano si intitola Simpler Times per questa nuova realtà statunitense, brano semplice ma efficace come dicevamo noi. Sì, è una voce veramente caldissima, vi riempirà completamente il cuore. Come back to me, I can't eat, I can't sleep, I want you near me. Cry out your name to the darkness, but no, you know where I see. Gonna try my best, but unfortunately, love's not what it seems. Knock me off my guard, knock me down to my knees, grabbed all of my dreams. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci qui dal Groove Master Studio per la seconda parte del soundcheck. Dopo l'informazione puntualissimi, vi avevamo anticipato all'inizio della puntata che avevamo un'anteprima internazionale. Hai notato, Francesco, che nel dire ciò mi sono gonfiato come un pavone. Sì, sei contentissimo, radioso. Sono felicissimo anche perché devo presentare uno dei miei musicisti preferiti di oggi, contrabbassista, bassista elettrico, ma in questa occasione anche producer artistico di questo album intitolato The Groove Lab. E vi sto parlando di Amin Salim, che ha scritto la musica, l'ha arrangiata guidando in studio di registrazione al Bunker Studios di New York, lì a Brooklyn, un manipolo di musicisti super quotati in questo momento. Fra questi Gregory Hutchinson, Cyrus Chestnut al pianoforte, naturalmente non poteva mancare anche Roy Hargrove, che è il suo band leader preferito, perché proprio con Roy Hargrove Amin Salim negli ultimi anni ha girato il mondo. Sì, fa parte del suo quintetto in maniera fissa, infatti Amin Salim è uno dei contrabbassisti e bassisti elettrici più richiesti in assoluto, infatti gli americani vogliono assolutamente lui, quando è disponibile, ovviamente quando non è già in tour con altre band. E nell'ultimo periodo, da un anno a questa parte, Amin Salim gestisce in comproprietà anche un trio con uno dei migliori pianisti italiani della nuova generazione, ovvero Domenico Sanna. Il trio si chiama Brooklyn Beat, che viene poi completato nell'organico dal bravissimo e giovane batterista Dana Hawkins. Ma non è di Brooklyn Beat che noi vi vogliamo parlare, bensì di The Groove Lab, il laboratorio del groove creato da Amin Salim. Album splendido, questa è un'anteprima del Soundcheck Radio 24, tra l'altro un album, lo devo dire, che è stato poi prodotto da una etichetta italiana che sta facendo tanto per il jazz italiano nel mondo, etichetta chiamata Giando Music. Quindi personalmente voglio ringraziare Gian Domenico Ciaramella per il bellissimo lavoro che sta facendo, la partecipazione di Via Veneto Jazz, quindi una produzione italiana per un disco internazionale di grande spessore. Sì, ascoltiamolo subito. Amin Salim con Mavis Swanpool come vocalist, il brano si intitola For My Baby, anteprima al soundcheck di Radio 24. Our fight is not with each other, is without each other. Mm-hmm. And I don't wanna face this world alone. Can make it together. Soundcheck, il suono della musica. You're the only man for me. Do you want to walk away or will you try and stay? Cause I'm not about to give up on you. Don't walk away, don't leave from me. I love you, baby. Don't leave from me. I love you, baby. perdetevi allora The Groove Lab di Amin Salim, qui con la voce di Ramona Dunlop. Il brano era Don't Walk Away, un'anteprima internazionale del soundcheck di Radio 24. Ringrazio quindi la produzione Giando Music, Via Veneto Jazz e Amin Salim per averci concesso questa meravigliosa opportunità di presentare a tutti gli appassionati di musica uno dei dischi più belli dell'anno. Si intitola The Groove Lab, in questo momento credo che non sia ancora in vendita, lo troverete sicuramente fra un paio di settimane su tutti i circuiti per acquistare il CD fisico, probabilmente in prevendita su iTunes. Fatto sta che The Groove Lab è un disco che dovete segnare sulla vostra agenda e che va acquistato assolutamente. Sì, io ho ascoltato un paio di brani, ancora non l'ho ascoltato tutto ed è veramente impressionante. Cioè, l'approccio ritmico di Amin Salim fa veramente paura. Ecco, e questo è un capitolo nuovo che ricorda quello aperto diversi anni fa dalla band guidata da Roy Hargrove, che è stato uno dei primi a avere l'intuizione, insieme a Branford Marsalis con i suoi Buckshot LeFunk, di riunire musicisti di jazz per creare groove con i suoi RH Factor, qui QT per Eric Abadu, il brano proprio scritto da Roy Hargrove, intitolato Poetry. Can you picture how a melody gets started to existence? Rhythm section hits it and upholds it with persistence. Picture in the outline and you start to see the colors, filling in with intricate splashes by all the brothers. Michelle is on the joint, you mean Miss Indigay or cello? No wonder why the hump inside this joint is feeling ghetto. A medal or award should be given to these heroes for their efforts of revealing and bringing forth the feeling. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Anche questo brano, da quando l'abbiamo messo in onda qui su Radio 24 al Soundcheck, è stato molto richiesto dai nostri appassionati di musica, che hanno inviato le email all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, titolo onomatopeico Dada and Da per Shantae Khan. Lo ripeto, non è la figlia di James Caan, no, l'attore, no. No, assolutamente no. Lei, intanto lei è nera e lui è bianco. Sì, poi è scritto con la C, C-A-N-N. È vero, Shantae Khan con tutta la parte ritmica e il sound tipico degli Snarky Puppy. Anche loro stanno spopolando in giro per il mondo, band guidata da Michael League, band nata per la passione di una serie di studenti universitari. Sì, un caso che però ha messo insieme dei musicisti fantastici che poi comunque hanno fatto in un certo senso la storia della musica, perché hanno vinto Grammy Award e sono impressionanti. Beh, ma dal vivo. Solo la sezione ritmica, con sì. Robert C. Wright alla batteria, Corey Henry all'organo e alle tastiere, Bill Lawrence al pianoforte, lo stesso Michael League al basso elettrico, insomma sono parlando di qualcosa di veramente solido. Sì, poi comunque hanno fatto dei progetti veramente trasversali, alla fine sono riusciti a suonare anche con la Metropole Orchestra. Ecco, allora, visto che l'hai detto, io vorrei presentare subito questo ultimo lavoro discografico per Snarky Puppy, sempre perennemente in tournée, visto le date che hanno. Sì, praticamente, cioè un altro poco, suonano contemporaneamente in due posti diversi. Esatto, il giro del mondo stanno facendo, dovranno sì. comprare un aereo personale come fece James Brown all'inizio degli anni 70. O dovrebbero clonarsi. Snarky Puppy con Flight, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Give me something more, give me something more, give me something more. E qui c'era proprio della follia totale, quella di Drew of the Drew, anche questa una giovanissima realtà statunitense, musicisti che arrivano, come dicevamo prima, da dove? Dalla Berkeley. Sempre dalla Berkeley, che coniugano la loro passione per il funk con sonorità elettroniche al limite dell'hardcore quasi in alcuni momenti. Sì, praticamente c'è una mistura incredibile, spaziano attraverso i generi in una maniera impressionante, è come se... ci sono dei punti in cui sembra come se fosse una boy band degli anni 90 con tutti i musicisti che vengono dalla Berkeley, quindi con una qualità impressionante. Sì, la cosa che mi impressiona, come dicevi tu, è il cambio di registro improvviso che si avverte all'interno degli arrangiamenti di ogni singolo brano di questa band, lo ripeto, che si chiama Drew of the Drew, che poi è il nome d'arte, credo, del leader, bassista... multicolorato, sì, anche multistrumentista, perché fa diverse cose, certamente, ma anche fluorescente addirittura, è notato, ha un basso elettrico proprio che ti illumina. Sì, anche i video sono veramente simpatici, cioè sono dei personaggi assurdi, soprattutto lui, veramente un folle. Folle, tutto fatto in casa, tutto fatto nel suo studio, e il sound così potente ritmicamente viene regalato anche dalla presenza di due bravissimi batteristi, quindi non uno ma due batteristi, basso, Drew of the Drew, una chitarrista, bella ragazza, e poi una voce spettacolare, quella sempre della nostra amica, l'abbiamo scoperta e lanciata oggi, ovvero Joanna Titters, che credo sarà uno dei nomi presenti qui al soundcheck di Radio 24. Sì, questo brano però viene dal loro precedente lavoro, che era del 2013 se non sbaglio. Poi hanno fatto un singolo di recente che magari poi ascolteremo in un'altra occasione. Assolutamente, bene, siamo arrivati agli sgoccioli, direi di chiudere con una notizia, mi sembra una notizia interessante, perché più volte nel corso del due stagioni del soundcheck abbiamo invocato l'arrivo dei Fat Freddy's Drop, band meravigliosa neozelandese che gira il mondo, va dappertutto tranne che in Italia. Finalmente qualcuno ha pensato bene di invitarli, e ha fatto bene. Quando saranno in Italia Fat Freddy's Drop? Il 12 e il 13 novembre. Il 12 saranno a Milano all'Alcatraz e il 13 a Bologna all'Estragon, e porteranno un nuovo disco che uscirà a fine ottobre, che si chiamerà Base. Beh, sicuramente riusciremo a procurarcelo in qualche modo. Assolutamente. Chiamiamo direttamente Fat Freddy's Drop in persona. Allora, chiudiamo allora con Fat Freddy's Drop, ma non da un album recente, ma dal primo album, quello del 2005, quello che ha segnato in qualche modo anche la mia esistenza, album intitolato Based on a True Story, basato su una storia vera, quella dei Fat Freddy's Drop. Il brano si intitola Ray Ray, e con Ray Ray noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Sempre alle 19:15. Sempre qui su questi schermi al soundcheck di Radio 24. Ciao a tutti.